con Katia Maurelli della libreria Le Sorgenti, che è fra le organizzatrici e le curatrici della quinta edizione della Fiera del Libro. Editori della Tuscia a Bolsena, Piazza Matteotti, dal 23 al 26 agosto. Katia, ben trovata. Sera, buongiorno, ben trovati. Quinta edizione, Io raccontaci un po' com'è nata. è nata per volontà delle case editrici della Tuscia, che comunque sono tante. Abbiamo la casa editrice Massari Editori, Annulli Editori, abbiamo Sette Città di Viterbo, Edizioni Penne e Papiri di Tarquinia, Archeoares di Viterbo, e queste case editrici da 5 anni hanno conquistato uno spazio all'interno di una fiera che si chiama di Tuscia un po', che invade tutte le viuzze, i vicoli e le piazze di Bolsena, e hanno voluto curare uno spazio con i loro libri. Sì. Ok. Questa è l'idea, stando insieme, collaborando tra loro e presentandosi come, al pubblico come una realtà di editori della Tuscia. Quindi quante sono le case editrici della Tuscia più o meno? Quest'anno ci sono queste che ho citato, che Ok. sono 6. C'è qualche assente, ma le assenze probabilmente sono dovute più a dei motivi tecnici di non Ok. reperibilità, perché c'è una bella sinergia, io trovo da libraia, tra le realtà editoriali del nostro territorio. Questa 4 giorni come sarà articolata? Le 4 giornate vedono dei pomeriggi dedicati ad un libro, a parte la domenica, dove abbiamo addirittura 2 presentazioni. Venerdì 24 alle 18:30 presso la librosteria, perché quest'anno gli editori mi hanno chiesto appunto di mettere a disposizione la sala nella quale noi solitamente come libreria organizziamo anche presentazioni dei libri durante tutto l'autunno, inverno, primavera. E venerdì si incontra Giancarlo Breccola, che è un intellettuale, una persona molto colta, curiosa, di Montefiascone, che con Annulli Editori ha scritto Streghe e stregonerie in terra di Tuscia, una excursus tra gli archivi locali alla ricerca dei processi ci sono stati nei secoli passati per stregoneria. Ci saranno anche eventi al chiuso o tutto in piazza? Ok. Allora, le presentazioni le facciamo al chiuso. C'è uno spazio libri dove gli editori espongono, che è su Corso Cavour, a pochi metri di distanza dalla libreria. C'è una sala, la sala Cavour, dove loro avranno, diciamo, gli stand, e sono presenti quindi per incontrare autori, lettori e far conoscere tutti i loro cataloghi. E poi ci sono questi appuntamenti. Sabato, per esempio, c'è un curiosissimo libro scritto da Stefano Mecorio, un giovane giornalista freelance, che ha scritto La mia Francigena, 2 scarpe e una borraccia da Proceno a Monterosi, ed è pubblicato da Sette Città, ed è una curiosa cronaca di un curioso modo di fare la via Francigena, che in questo momento è frequentatissima, scanzonata, ma anche attenta a rileggere il territorio che è di Stefano Mecorio in questo breve percorso che va dall'Alta Tuscia alla Bassa Tuscia. Ok. Questo Senti, sabato alle 18:30. sì, durante l'anno, al di là di queste 4 date, c'è comunque uno scambio, la creazione di eventi condivisa? Sì, in particolare con Nulli Editore, che in questo momento è particolarmente vivace. Sì, nel corso dell'anno io almeno 2 o 3 volte accolgo a Nuvia Editore, che è padre e figlio, Leonardo, il più giovane, invece Giuseppe è il vecchio preside della scuola, ma non è vecchio, insomma, il fu direttore della scuola, quindi una persona molto legata al territorio, che conosce molto bene il territorio, e nel corso dell'anno capita di presentare libri o con loro come ospiti o perché libri pubblicati da loro sul territorio. Dire libri sul territorio mi sembra sempre un po' limitante, però. Ecco, proprio a questo proposito, di queste 6 editrici che hai citato e che sono presenti, quali sono le tematiche più presenti nei volumi? Storia, La una storia. rilettura della storia, secondo me sì. E ultimamente, se penso per esempio al libro di Luciano Dottarelli, no, un altro grande intellettuale della Tuscia, una persona squisita che è estremamente attiva nella promozione culturale. Lui ha fatto una raccolta dei suoi saggi, si chiama Riverberi, di Tuscia e d'altro, ed è un modo di avvicinare il territorio da inquadrature diverse, di fuori della storia ufficiale, se vogliamo, tra santi e patroni, ma anche al di fuori del quadretto bucolico per i turisti, tra passato, presente e anche prospettive future. Questo come caratteristica di libri pubblicati e anche una restituzione di una storia tra grandi personaggi e microstoria che forse negli anni passati non c'era stata. Penso all'ultimo libro che presentiamo domenica su Giulia Farnese, Femina, Mater et Domina, che è appunto soffermarsi su una personaggia e automaticamente restituire delle schegge di storia locale, no? Sì. Questo sì. Senti Katia, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più. Ho visto che c'è un evento Facebook, c'è qualche altra pagina o qualche sito internet? Allora, il sito no, direi che di no, nel sito non c'è, ci sono le pagine Facebook, o la pagina Facebook della Libreria Le Sorgenti o la pagina Facebook di Tuscia un po', che presenta il programma anche di tutte le altre iniziative oltre alla Fiera del Libro. Benissimo. Allora, un saluto e un ringraziamento a Katia Maurelli della Librosteria Le Sorgenti, che è una delle curatrici della 5ª edizione della Fiera del Libro, Editori della Tuscia, a Piazza Matteotti a Bolsena dal 23 al 26 agosto. Katia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie, grazie. Arrivederci a tutti.